Sezione 17 di Odi Barbare di Giosuè Carducci. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Pierre. Nota. Volli congedarmi da lettori coi versi alla rima, proprio per segno che io, con queste odi, non intesi dare veruna battaglia, grande o piccola, fortunata o no, a quella compagna antica e gloriosa della poesia nuova latina. Queste odi, poi, le intitolai barbare, perché tali suonerebbero agli orecchi e al giudizio dei greci e dei romani, sebbene volute comporre nelle forme metriche della loro lirica, e perché tali suoneranno, purtroppo, a moltissimi italiani, sebbene composte e armonizzate di versi e di accenti italiani. E così le composi, perché, avendo ad esprimere pensieri e sentimenti che mi parevano diversi da quelli che Dante, il Petrarca, il Poliziano, il Tasso, il Metastasio, il Parini, il Monti, il Foscolo e il Leopardi, ricordo in specie i lirici, originalmente e splendidamente concepirono ed espressero, anche credei che questi pensieri e sentimenti io poteva esprimerli con una forma metrica meno discordante dalla forma organica con la quale mi si andavano determinando nella mente, che se a Catullo e ad Orazio fu lecito dedurre i metri della lirica eolia nella lingua romana che altri ne aveva suoi originari, se Dante poté arricchire di care rime provenzali la poesia toscana, se di strofe francesi l'arricchirono il Chiabrera e il Rinuccini, io dovrei, secondo ragione, potere sperare che di ciò che a quei grandi poeti o a quei rimatori citati fu lode, a me si desse almeno il perdono. Dunque, chiedo perdono dell'aver creduto che il rinnovamento classico della lirica non fosse sentenziato e finito co tentativi, per lo più impoetici, di Claudio Tolomei e della sua scuola, e nei pochissimi saggi del Chiabrera. Chiedo perdono di non aver disperato di questa grande lingua italiana, credendola idonea a far con essa ciò che poeti tedeschi, dal Klopstock in poi, fanno assai felicemente con la loro. Chiedo perdono dell'avere osato recare qualche po' di varietà formale nella nostra lirica moderna, che non è mica quel tanto che alcuni credono. Velleità queste mie, lo so io per primo, tanto più importune e inopportune oggi che, dinanzi al vero storico, il quale, gloria e tormento del secolo nostro, pervade ormai tutto il pensiero umano, la poesia, mi perdonino i lettori, anche queste fantasie funebri, compie di spegnersi. Tant'è, a certi termini di civiltà, a certa età dei popoli, in tutti i paesi, certe produzioni cessano, certe facoltà organiche non operano più. La epopea, intanto, è sotterrata da un pezzo. Violare il sepolcro della gran morta, cancaneggiandovi su, anche se non fosse indizio di svogliatezza depravata, non diverte. Il dramma agonizza e i troppi medici non lo lasciano nemmeno andare in pace. La lirica, individuale com'è, par che resista e può durare ancora qualche poco, a condizione peraltro che si serbi arte. Se ella si riduce ad essere la secrezione della sensibilità o della sensualità del tale e del tale altro, se ella si abbandona a tutte le rilassatezze e le licenze innaturali che la sensibilità e la sensualità si concedono, allora, povera lirica, anche lei la vedo e non la vedo. Se ne potrà fare in prosa come e quanto se ne vorrà, in tutte le prose, e il nostro secolo ne ha molte. Da un pezzo se ne cominciò a fare nei cosiddetti metri liberi, ma l'avere adattato alla lirica codesta verseggiatura da recitazione e da descrizione, senza strofe, con le rime a piacere, è un indizio che della vera lirica, le poesie del Leopardi così verseggiate non sono lirica propria, si è perduto ogni concetto. I popoli veramente poetici, le età veramente poetiche, non conoscono si fatti metri. E basti dire che in Francia e furono la forma prediletta di quella stupida poesia del regno di Luigi XVI e del primo impero, la quale finì col De Lavigne. La lirica bolsa, con la pancia, in veste da camera, larga a cintura e in pantofole. Oi bo! Point de contrainte fausse, mais qui pour marcher droit, tu chausses muse, un cotourne étroit. Fui du rythme commode, comme un soulier trop grand, du mode que tu pied quitte et prend. Così Teofilo Gautier ammoniva la musa francese. Io, inchinato al piede della musa italiana, prima lo bacio con rispettosa tenerezza, poi tento provargli i coturni, saffici, alcaici, asclepiadei, con i quali la sua divina sorella guidava i cori sul marmo pario dei templi dorici, specchiantisi nel mare che fu patria ad Afrodite e ad Apolline. Se non che, ora mi ricordo, che poco più su ho dato la poesia per ispacciata e moribonda, e provare gli stivaletti a una moribonda non è certo la cosa più opportuna e sensata e gradevole di questo mondo. Altri farebbe intendere che è una contraddizione d'innamorato. Io dico che ero per finire, e volli finire con un'immagine, come usa ogni scrittore e parlatore che abbia un po' di rispetto per sé, per l'arte e per il pubblico. Segno anche questo che io, per il primo, faccio parole e non poesia. In ciò può darsi che siamo d'accordo, o lettore malevolo. Massa Lunense, 13 giugno 1877, Giosuè Carducci. Fine della sezione 17. Registrazione di Pierre. Fine di Odi Barbare, prima edizione del 1877, di Giosuè Carducci.